stata organizzata, concepita dall'AIED e da Silvia Camin, che è qui con noi questa sera. Il tema è molto interessante, soprattutto per chi ha ragazzi a casa, quindi diventa difficile anche esercitare un controllo, perché il confine tra la privacy, la discrezione, ma l'educazione, un certo controllo che serve, non è così facile da definire, e ci vuole molta delicatezza e confidenza anche con i propri figli. Abbiamo con noi gli ospiti, come ospiti, Maurizio Costantini, Antonella Gianandrea, che sono anche gli autori del libro che sarà l'argomento, il tema di questa serata, ed è qui su questa su questo tavolo. La biblioteca organizza periodicamente, ogni settimana, degli incontri. Siamo sempre molto contenti quando associazioni ed altre istituzioni ci aiutano nell'esplorazione e nella diffusione di nuove tematiche, perché crediamo che anche attraverso questo, diciamo, questa missione, la biblioteca possa esprimersi al servizio del pubblico e della cittadinanza. Questo tema non verrà sviluppato con un'altra replica, ma fa parte di una prima catena di interventi che abbiamo pensato grazie a questa ispirazione che ci ha dato Silvia ancora un paio di mesi fa, quando ci siamo trovate. E infatti vorremmo continuare ad occuparci, a tenere d'occhio la gioventù di oggi e dare così, contribuire forse a dare degli strumenti ai genitori e agli educatori, affrontando poi prossimamente il 31 di maggio un altro tema, che è quello dei bambini arcobaleno. Quindi ci stiamo un po' muovendo anche in questo settore dell'adolescenza e dell'educazione. Io vi ringrazio di essere qui con noi, vi auguro tanta buona fortuna anche con le vostre attività preziosissime. Ringrazio Silvia e l'AIED per questa collaborazione e un augurio di buona serata a tutti voi. Grazie. Grazie. Sì, va bene, sentite bene così, o preferite anche se sì? In fondo sentite bene? Ok, d'accordo. Allora, siamo molto contenti di essere qui e noi arriviamo da Roma e abbiamo realizzato, io e la collega Antonella, questa guida che si chiama Bulli e Cyberbulli, ora basta, quindi un segnale molto chiaro, no? Che questa guida intende dare a tutte queste situazioni e manifestazioni che purtroppo stanno accadendo in molte scuole, no? Italiane, come sapete dai telegiornali, dalle informazioni che ci arrivano quasi quotidianamente da più parti del nostro paese, ma anche non solo a scuola, ma anche in tutte quei luoghi in cui i giovani, adolescenti e bambini si incontrano e stanno del tempo insieme. Ecco, oggi sembra sia diventato un po' più difficile per gli adolescenti e bambini stare insieme senza poi provocare alcune problematiche che poi adesso oggi andremo insieme a vedere. Dunque, sia io che Antonella, ecco, non vorremmo oggi occupare tutto il tempo a parlare solo noi, ma poi ci piacerebbe chiaramente avere con voi un confronto diretto, quindi saremmo ben contenti di ricevere le vostre domande, i vostri quesiti, le vostre opinioni su questo tema, perché ecco, ci sembra interessante poter trasformare questo pomeriggio, momento di confronto aperto tra tutti quanti i partecipanti, noi e voi tutti, insomma. Bene, quindi faremo, diciamo, una premessa e poi ecco, magari apriamo un po' la discussione, il dibattito. Abbiamo con noi anche portato alcuni video molto brevi realizzati da alcuni studenti di una scuola romana sul tema proprio del bullismo e cyberbullismo, che poi vi faremo vedere e poi vi diremo anche perché li abbiamo portati. Bene, allora intanto per iniziare, diciamo che che cos'è il bullismo, penso che si sa, no? Nel senso che adesso non si sente più, si perde l'audio. Subito. C'è un altro, ah no, ce n'è un altro. Ce n'è un altro, un altro. Infatti. Mi sembra strano. Opla. Questa funziona. Allora, dunque, intanto ecco perché abbiamo fatto questa guida, ve l'ho già un po' accennato, in realtà si tratta di una guida che è rivolta sia ai genitori, sia agli insegnanti che agli studenti, quindi all'interno di questa guida troverete tutta una serie di indicazioni utili un po', no, sia appunto ai genitori ma anche ai figli, ai ragazzi e anche agli insegnanti. E ci è sembrato utile fare questa guida, che poi è una guida multidisciplinare, quindi all'interno abbiamo raccolto vari contributi di vari esperti dal punto di vista legale, perché come sapete c'è anche una nuova legge che riguarda il cyberbullismo, una legge molto importante del maggio scorso, di cui poi vi accenneremo, vi diremo, e interventi anche della polizia postale, che come sapete è un organo molto importante per la prevenzione, con dei consigli anche molto pratici che in realtà ogni genitore dovrebbe conoscere, così come anche ogni insegnante. Anche perché poi la legge sul cyberbullismo è una legge che dà delle indicazioni precise proprio sulla prevenzione, una legge che mira molto all'aspetto di come prevenire proprio, no, il bullismo e il cyberbullismo. E quindi ci auguriamo che per poi chi di voi la leggerà, la consulterà, possa essere di grande aiuto. All'interno della guida ci sono abbiamo inserito diciamo le email, quindi i recapiti elettronici di tutti noi che abbiamo fatto la guida, perché chiunque avesse bisogno di ulteriori approfondimenti, di ulteriori informazioni, noi siamo a disposizione, possiamo rispondere a eventuali vostre mail, richieste, diciamo, di ulteriori informazioni. Quindi vuole essere anche una guida in qualche modo, in questo senso, molto interattiva, in questo senso, ecco, rimaniamo a disposizione. Dunque, ovviamente voi sapete che magari, no, quando, insomma, io sono molto avanti con gli anni, ricordo quando ero già ragazzino, già all'epoca, e comunque non è che non ci fossero stati atti di bullismo, immagino che ognuno di voi, se va indietro nel tempo, potrà rivedere alcuni atti di bullismo della propria esperienza scolastica, no? Come mai allora oggi si parla così tanto di bullismo? Che cosa è che sta accadendo? In realtà se ne parla molto perché intanto finalmente si dà voce a quel disagio che probabilmente prima era un po' più sommerso, più nascosto, no? Soprattutto ragazzi e ragazze, come anche i bambini, diciamo, tendevano un po' a nascondere, no, questa realtà, per paura di essere giudicati, dai compagni, dallo stesso insegnante, dagli stessi genitori. Era come se dichiararsi vittime di bullismo fosse poi vissuto come, no, come se la paura di essere anche rimproverati, no? Come dire, sei troppo fragile, non ti sai difendere, mentre invece noi sappiamo che dietro al bullismo spesso c'è anche un gruppo, non c'è soltanto lo scontro tra una persona e un'altra persona, ma ci può essere un gruppo che invece va contro una singola persona spesso, no? Oppure se non è il gruppo a fare azione di bullismo, come ci sono gli spettatori passivi che in realtà sono comunque partecipi degli atti di bullismo, perché se noi assistiamo ai fenomeni aggressivi, no, di violenza, che siano verbale, psicologica o fisica, e non facciamo nulla, non diciamo nulla, in realtà siamo comunque complici, cioè siamo lì che partecipiamo anche noi, anche se indirettamente, ma siamo complici di un'azione di bullismo. Quindi oggi a noi sembra che in qualche modo l'adolescente di oggi sta iniziando un pochettino meglio a difendersi, a dire qualcuno mi sta bullizzando. Quindi adulti, aiuto, intervenite, perché non sempre ovviamente l'adolescente ce la può fare da solo, meno che mai i bambini più piccoli. Quindi oggi è aumentata la consapevolezza che se qualcuno mi fa del male, se qualcuno mi danneggia, io posso in qualche modo chiedere aiuto. non sempre è così, però sta aumentando questa consapevolezza in molte scuole. Dov'è che aumenta la consapevolezza? Laddove se ne parla, come qui oggi stasera noi stiamo parlando insieme per cercare magari insieme delle strategie, dei comportamenti adeguati per la prevenzione. Questo fa sì che il fenomeno possa essere in qualche modo, appunto, no, si possa combattere il fenomeno, si possa migliorare insieme i comportamenti e le relazioni anche tra gli adolescenti, tra i bambini. Quindi quello che a noi fa molto piacere vedere, noi andiamo in tantissime scuole e cosa notiamo? Che già i ragazzi, anche i bambini piccoli, ci raccontano cosa accade nelle loro classi e lo raccontano a voce alta di fronte a tutti con meno vergogna. Questo è, secondo noi, già un grande passo avanti di quello che sta accadendo. Dico questo perché in realtà se noi notiamo, diciamo, la comunicazione che avviene, le informazioni che riceviamo dai mass media, dalla televisione, dalla stampa, eccetera, noi ci arrivano le situazioni, no? I drammi che accadono, no? Si arriva, appunto, purtroppo in alcuni casi anche, no, al suicidio di alcuni ragazzi che, appunto, magari sono stati vittime di cyberbullismo. Ma contemporaneamente a tutto ciò dobbiamo anche mettere in luce questo aspetto che sempre di più, ripeto, laddove a scuola se ne parla apertamente, laddove in famiglia se ne parla apertamente, laddove le istituzioni pubbliche se ne fanno carico di questo problema, ecco che lì l'adolescente, ma anche il bambino, si sente più disponibile a parlarne, a raccontare, quindi a denunciare un fenomeno che è stato in passato sempre comunque presente, ma molto più sommerso. Per esempio, perché c'era anche di fronte ai ricatti, di fronte, no, la paura di essere, no, delle minacce, e c'era la paura che bloccava. Noi sappiamo che quando un bambino ha paura, un adolescente ha paura, si sente minacciato, tende più a tenersi le cose per sé, non racconta. Questo accade anche oggi, non stiamo dicendo che non accade più, accade anche oggi ovviamente, però sta avanzando anche l'aspetto della consapevolezza tra i giovanissimi, e quindi ecco perché oggi se ne parla anche di più, perché vengono fuori più denunce, più racconti, più testimonianze. Questo ci sembra un aspetto molto importante. Quindi guide come questa dell'AIED, quindi come anche altre, insomma, sono testimonianza che comunque insieme se ne può parlare. È un modo di fare rete tra servizi, tra consultori, con la polizia postale, no? Associazioni di avvocati che lavorano per prevenire questo fenomeno, per intervenire, insomma, fare rete insieme tra i servizi e con le famiglie ci sembra il modo più corretto per fare prevenzione, per prevenire questi fenomeni, e laddove invece il fenomeno già esiste, poter intervenire in maniera adeguata, perché anche questo è un altro problema, di come poter intervenire in maniera adeguata, ecco, rispetto a tutti i problemi che si possono, appunto, presentare. Rispetto al cyberbullismo, o come qualcuno dice ciberbullismo, perché, no, su questo c'è tutta una discussione, cioè, ma tutti diciamo cyber, c'è chi dice si dovrebbe dire invece cyberbullismo, come cibernetica, no? E va bene, comunque come vogliamo chiamiamolo, insomma, adesso noi siamo abituati a dire cyberbullismo, ciberbullismo. Praticamente è un fenomeno che voi sapete bene, riguarda appunto il mondo di internet, del web, della rete. Cosa fanno oggi i ragazzi già giovanissimi che hanno in mano questo strumento pazzesco, straordinario, no? Che è lo smartphone, che è il telefonino collegato a internet. Hanno in mano uno strumento molto potente, no? Sappiamo che internet è qualcosa di estremamente importante, che ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, no? Io ricordo ancora quando scrivevo la macchina da scrivere, insomma, no? Facevo dei giornali, delle cose, mi divertivo a scrivere, e con questa macchina che, no, poi sbagliavo, non cominciavo a scrivere il foglio, era terribile, no? Cioè, una cosa veramente terribile. Frustrante. Oggi chiaramente noi con un click mandiamo un messaggio dall'altra parte del mondo, per cui se c'è qualcuno a Sydney che vuole ricevere una mia notizia, tempo 3 secondi ce l'ha già lì a casa, no? Quindi internet è straordinario. Quindi su questo non c'è dubbio, e questo è bene che i ragazzi lo sappiano, no? Che gli adolescenti sappiano questo, anche i bambini, però devono anche sapere che internet è anche fonte di rischi, quindi i pro e i contro, ci sono dei rischi che dobbiamo conoscere, così come dicevo prima del telefonino, smartphone, no? Bene, è uno strumento potentissimo, pensateci un attimo a cosa si può fare con un telefonino collegato a internet, no? Cioè si può fare di tutto, si può entrare in qualsiasi sito, si può navigare ovunque, soprattutto si possono pubblicare video e foto che i ragazzi fanno. Per esempio a noi è capitato di assistere a qualcosa del tipo, insomma, una scuola, una ragazza si stava cambiando palestra e dei ragazzi la stavano rifacendo un video mentre si cambiava, lei non si era accorta, no? L'idea loro era di pubblicarla sui loro social, no? Per gioco, per farne, per loro questo era uno scherzo, ok? Quindi c'è spesso da parte di questi ragazzi che vedono queste cose come se fossero come uno scherzo, cioè manca loro la consapevolezza dei rischi, no? dei danni che possono provocare nel pubblicare, nel mettere in rete un video che va a danneggiare l'immagine di una ragazza, di un ragazzo, di un bambino. Ecco, manca questa consapevolezza, ecco perché noi siamo molto presenti nelle scuole a informare gli studenti, perché i ragazzi di oggi che sono un po', no, come dire, i cittadini digitali, no, nativi digitali, sono nati con il mondo del web, di internet, devono assolutamente diventare cittadini consapevoli digitali, devono imparare a riconoscere i pregi ma anche i rischi dell'usare il web, la rete e quindi anche lo smartphone collegato con internet, perché a loro manca, questa almeno è la nostra esperienza, no? Antonella, mi sembra che ci arriva spesso questo feedback da parte degli studenti, che loro dicono: sì, ma io quando l'ho fatto non pensavo di fare del male a qualcuno, l'ho fatto perché volevo scherzare con la mia amica. E quando noi spieghiamo che quel video che è stato pubblicato, una volta che è inserito in rete, sul web, può andare in mano a milioni di persone, perché poi sappiamo che diventa virale e quindi può arrivare in tutto il mondo, da lì poi, no, chi ne è vittima poi si sente minacciato nella sua identità di adolescente, no? Perché la sua immagine, no, magari un'immagine che è offensiva, fa il giro del mondo, da lì poi, no, tutti i vari problemi che subentrano. Quindi questo fenomeno lo si può interrompere soltanto facendo prevenzione, soltanto spiegando ai ragazzi, soprattutto spiegando ai ragazzi, no, ragazzi e ragazze, di quali sono i danni e i rischi che si corre, così come quando loro scrivono, no? che si offendono fra di loro. Il linguaggio che si usa oggi sul web è, se andiamo ad analizzarlo, certe, no, è diventato veramente pesante. Per loro ormai certe parole sono, come dire, anche lì, no? Torno all'espressione del ma in gioco, ma noi scherziamo. No, quando si scrive, tra l'altro tutto ciò che va sulla rete rimane, loro pensano che poi possono cancellarlo, oppure pensano: beh, ma tanto siamo in forma anonima, chi ci riconosce? Non esiste l'anonimato sul web. Se qualcuno vi offende sulla rete con un nickname, che ne so, Pingo Pallino, senza il suo nome e cognome, voi andate alla polizia postale, tempo pochi minuti, voi sapete il nome, cognome e indirizzo di quella persona che vi ha offeso. Ecco, quando diciamo queste cose i ragazzi rimangono stupiti, no? Ecco, quindi noi dobbiamo veramente informarli di tutto questo, sempre per evitare, no? Quindi prevenire un po' quelle che sono le problematiche. Rispetto alla comunicazione, noi facciamo dei piccoli laboratori, no, esperienziali a scuola, quando li facciamo scrivere sulle loro social, no, come insomma i vari WhatsApp o tutto il resto che oggi si hanno, sia adulti ma anche i giovani che hanno, per comunicare tra di loro. Tra l'altro oggi a scuola usano molto WhatsApp per comunicarsi, compiti a casa, eccetera, eccetera. Non solo loro, perché lo usiamo tutti. Loro praticamente poi lo usano anche per comunicare le loro cose e anche arrivano agli insulti. E a volte arrivano da noi negli sportelli di ascolto delle scuole, arrivano per esempio dei ragazzi, dicono, o delle ragazze che dicono: ah, mi hanno escluso dal gruppo perché ho detto questa cosa, ma io non intendevo dire quella cosa, intendevo un'altra cosa. Insomma, la comunicazione via web, via internet, si presta a molti fraintendimenti, tantissimi. Perché? Semplicemente perché manca l'aspetto non verbale, l'aspetto emozionale, giusto? Quando noi facciamo fare delle simulate ai ragazzi e diciamo che, okay, non so, rappresentate una scena in cui fate capire che siete tristi o che siete allegri, no? Senza parlare, gli altri dicono: ah sì sì, abbiamo capito che lui è triste e lei è allegra. Dico, senza dire una parola, no? Da cosa l'avete capito? Avete capito dalla comunicazione non verbale, la postura, lo sguardo, eccetera eccetera, no? Quando voi scrivete un messaggio sulla chat, in realtà non c'è l'emozione. E molte frasi possono essere fraintese, possono essere lette in due modi o in tre modi diversi. Quando spieghiamo queste cose a questi laboratori e li facciamo sperimentare concretamente, loro dicono: ah, ecco perché mi hanno escluso dal gruppo, no? Allora i consigli pratici sono: usate i vari emotion, le varie emozioni, le varie faccine, oppure se state scherzando aggiungete: guardate che io sto scherzando. Sembrano banalità per noi adulti, ma per loro sono a volte delle questioni molto importanti, che ne va della loro amicizia. Oggi ragazzi rompono un'amicizia per una comunicazione errata, cioè accadono cose, e sono molto frequenti queste cose, e poi conflitti che nascono nei gruppi, quindi nel gruppo classe, piuttosto nel gruppo di amici, che sia il gruppo del sportivo, parrocchiale, qualsiasi tipo di gruppo, no? Possono nascere grandi problemi. E chiaramente oggi genitori e insegnanti, noi adulti, sfugge tutto questo. Cioè il mondo del cyberbullismo, il mondo di tutto ciò che sta dentro la rete, diventa difficile da controllare per un genitore. Perché? Perché hanno in mano il loro strumento, che è lo smartphone, che nessuno controlla. Quindi noi non sappiamo quello che accade, però per fortuna ci sono dei segnali che noi possiamo imparare a riconoscere per capire se il nostro figlio, se la nostra figlia ha qualche problema legato al bullismo o al cyberbullismo. Sono segnali appunto che sono presenti nella nostra guida, ma che poi di cui possiamo senz'altro appunto parlare insieme per poterli riconoscere, individuare e poter intervenire. Sempre ai fini della, no? Della prevenzione. Passo la parola, ok, magari ci interveniamo, poi ci piacerebbe anche aprire. Allora, ecco, volevo un po' accennare agli aspetti psicologici del bullismo, no? Quando parliamo di aspetti psicologici parliamo delle emozioni. Perché le emozioni giocano un ruolo così importante nel bullismo, come nel cyberbullismo? Perché abbiamo potuto constatare come le emozioni, come nel bullismo, c'è proprio una incapacità di regolare, soprattutto gestire e regolare le emozioni, sia per quanto riguarda il comportamento della vittima, sia per quanto riguarda il bullo. Le emozioni, intanto, che cosa sono delle emozioni? Diamo una brevissima definizione, così tanto per capire, perché sono importanti anche nel mantenimento della salute come stato di benessere biologico, psicologico e sociale. Intanto sono degli stati mentali associati a degli stimoli che possono essere sia interni che esterni. Diciamo che le emozioni in prima istanza sono elaborate come in maniera autonomica, vale a dire come reazione, come il corpo, l'organismo si prepara ad adattarsi a una situazione che percepisce come una situazione di potenziale pericolo. Ad esempio, se c'è una situazione di paura, allora l'organismo si prepara eventualmente o ad attaccare o a fuggire. Quindi non c'è una vera elaborazione dell'emozione, c'è diciamo una risposta così automatica che è legata proprio all'adattamento, alla sopravvivenza. Solo in un secondo momento l'emozione viene elaborata a livello proprio di un'area cerebrale superiore, e quella proprio l'area in cui avviene la consapevolezza, cioè che cosa mi sta accadendo. E è lì che c'è, dovrebbe quantomeno esserci l'elaborazione o la descrizione dell'emozione, il trovare le parole per esprimerla. Sembra facile, ma in realtà questo processo, questo collegamento che dovrebbe esserci tra il riconoscimento iniziale dell'emozione e la reazione somatica e fisiologica e la successiva elaborazione mentale, non sempre c'è. Soprattutto negli adolescenti, soprattutto nei bambini, che spesso non hanno ancora gli strumenti, soprattutto perché questi strumenti arrivano dagli adulti, in qualche modo sono gli adulti, tra virgolette, responsabili di passare, insomma, questi strumenti, e non sempre gli adulti a loro volta hanno appunto anche loro questi strumenti. Quindi che cosa succede? Succede che sono due le emozioni con le quali i ragazzi hanno più difficoltà. La prima è la rabbia. La rabbia che è nel bullo è incapace di esprimere la rabbia in un modo funzionale, e nella vittima è incapace anche la vittima di esprimerla altrettanto in un modo sano. Perché? Perché non è capace di trovare le parole per esprimerla in un modo assertivo, di trovare una giusta canalizzazione per dire di no a una situazione che non gli va bene. Per cui che succede? Che spesso la vittima subisce una situazione e non sa reagire, mentre il bullo è incapace di esprimere soprattutto l'empatia. Quindi non riuscire a mettersi nei panni dell'altro, non riuscire a cogliere lo stato d'animo dell'altro e le emozioni altrui è proprio un deficit, cioè un'incapacità, non ce l'ha. E questo deficit, questa mancanza è responsabile del bullismo. Ora è chiaro che non è che possiamo dire che tutti quelli che hanno un'incapacità di regolare le emozioni diventano bulli, è chiaro che i fattori sono sempre tanti, legati a fattori sociali, legati insomma al temperamento di base, legati al contesto scolastico, alle persone che incontrano. Quindi non possiamo dire esiste una causa specifica che porta al bullismo, esistono una serie di cause che portano al bullismo e comunque le emozioni giocano un ruolo fondamentale. Allora, le emozioni ci sono fin dalla nascita, esistono le emozioni primarie, appunto la paura, la rabbia, la gioia, la tristezza, che sono importanti per noi perché appunto, come dicevo prima, sono legate al mantenimento della salute, sono legate alla nostra sopravvivenza. E che cosa succede? Succede che spesso nelle famiglie manca proprio un riuscire a familiarizzare con le emozioni, a parlare di emozioni, di come ci si sente, perché i motivi sono tanti. Spesso nella società in cui viviamo oggi, orientata soprattutto al fare e al pensare, siamo poco abituati ad esprimere ciò che sentiamo. Sembra che lo stato di benessere sia legato al fare, al produrre, al consumare, e invece la cosa importante è riuscire a fermarsi, a capire come ci sentiamo. Quindi lo stile educativo genitoriale è importante nella prevenzione del bullismo, perché qui parliamo soprattutto di prevenzione. La guida vuole essere una guida, come diceva appunto Maurizio, per informare ma anche per prevenire, perché non perché poi non si possa risolvere il problema e affrontare, tutto si può affrontare, ma bisogna imparare a prevenire, bisogna riuscire a trovare gli strumenti per non arrivare ad una situazione dalla quale non sempre c'è una possibilità di ritorno, perché purtroppo accadono delle tragedie che poi hanno portato anche alla legge, no? Appunto a pensare ad una legge per tutelare e appunto per prevenire, sensibilizzare. Quindi gli stili educativi genitoriali sono molto importanti, no? Nel corso del tempo si è passati da uno stile autoritario in cui le famiglie davano delle punizioni, quindi c'era uno stile, come dire, coercitivo, quindi non c'era l'apertura, il dialogo, la comunicazione, e in realtà non si rispondeva ai bisogni dei figli. È chiaro che quello stile non può aiutare un ragazzo a crescere, no, in modo sano. È molto probabile che poi nell'età adulta possa avere difficoltà sia a livello relazionale e quindi sia a livello appunto appunto comportamentale, diventare violento o comunque subire, scegliere un partner a sua volta violento, e così come uno stile educativo, come dire, troppo, che permette troppo, no? dove il genitore dà molto, dove il genitore non è una guida ma diventa un genitore amico, non funziona. Il genitore non può fare l'amico, il genitore è genitore, non può esserci un rapporto alla pari, e un genitore può essere aperto, può essere comunicare, può condividere, accompagnare, ma è importante che per il figlio sia e resti una guida che poi il ragazzo, il bambino deve interiorizzare, che poi gli è utile sia per regolare i propri stati emozionali e sia poi per relazionarsi con gli altri in un modo efficace. Così come uno stile educativo che non risponde affatto ai bisogni lascia il ragazzo solo, per cui non si sente amato, per cui non si sente accettato, avrà una scarsa autostima, e è probabile che questo stile, anche uno stile educativo di questo tipo, possa portare poi o a essere vittima o a diventare bullo, perché il ragazzo può sviluppare o aggressività oppure sviluppare un atteggiamento passivo ed essere poi incapace di esprimere la rabbia, come dicevo prima, in modo sano. Allora, qual è lo stile che funziona? Uno stile che funziona, non è che esista un modello perfetto, esiste uno stile che può, come dire, insomma, funzionare meglio degli altri, o comunque cercare il più possibile di avvicinarsi. È lo stile autorevole. Lo stile autorevole è quello che si apre al dialogo, alla comunicazione. Uno stile in cui si familiarizza con le emozioni, in cui in casa si è abituati ad esprimere come ci si sente e non c'è questa difficoltà, o comunque non c'è la vergogna di dire come ci sentiamo, che cosa abbiamo provato in una situazione, se c'è stata paura, se c'è stata rabbia, perché solo in questo modo che il ragazzo sa poi capire le sue di emozioni. Se l'adulto è in grado di riconoscere le proprie, il bambino sa poi lui capire le sue di emozioni e veramente imparare ad usarle come guida proprio per muoversi nel mondo e non ammalarsi, perché comunque le emozioni, quando non sono sufficientemente regolate, possono portare non solo a dei comportamenti violenti, ma possono portare a sviluppare delle malattie vere e proprie, psicologiche, somatiche, di qualsiasi tipo. Ci sono tantissimi studi che oggi parlano di come la disregolazione affettiva ed emozionale può portare anche a sviluppare una malattia psicosomatica, perché tutte le malattie sono psicologiche e somatiche, perché appunto la mente e il corpo non sono scissi ma sono uniti. Finalmente si è raggiunti questa unità mente-corpo e questa visione olistica dell'individuo. Ecco, quindi questo volevo dire, insomma, che le emozioni giocano un ruolo fondamentale. Volevo dire che, come prima dicevo, dell'empatia, no? Nel bullo la mancanza di empatia porta il bullo a comportarsi da bullo. Ora, nel cyberbullismo questa mancanza di empatia è ancora più evidente. Perché? Perché non essendoci un contatto diretto, dove i ragazzi non, come diceva Maurizio, non hanno un contatto, non si vedono, non si guardano negli occhi, non si sentono, non si toccano, non c'è una comunicazione non verbale, non passa, è molto più facile non esprimere empatia. È proprio, veramente, la comunicazione attraverso il web è assolutamente non facilitante per la costruzione dell'empatia, anzi porta ancora di più, laddove manca, porta ancora di più a ostacolare il funzionamento o addirittura appunto la costruzione. Per cui è anche per questo che il fenomeno del cyberbullismo è ancora più diffuso del bullismo, perché è molto più facile. Addirittura, pensate, ragazzi che magari in una situazione appunto non legata appunto al quotidiano, non legata al web, ma a cui hanno subito bullismo, addirittura nel cyber appunto diventano loro stessi dei bulli. Quindi insomma si invertono proprio i ruoli, è una situazione completamente diversa. Per questo poi si è arrivati a pensare ad una legge che dovrebbe, speriamo, cercare appunto di tutelare il più possibile. Ecco, oggi quindi la famiglia è chiamata, così come la scuola, a vigilare sui comportamenti dei figli. Che significa vigilare sui comportamenti dei figli? Ovviamente non significa stare lì a guardare, insomma, intromettersi, a spiare, a vedere, a violare poi la privacy del ragazzo, no? Quindi controllare il telefonino, lo smartphone, perché lì bisogna trovare un giusto equilibrio, un giusto confine, no? Tra appunto aiutare il ragazzo a mantenere la sua privacy, perché ha bisogno di mantenere quella privacy, perché gli serve per staccarsi, gli serve per separarsi, altrimenti non ce la fa a fare questo passaggio. Quindi qual è la posizione che può e che dovrebbe prendere l'adulto, il genitore, l'insegnante? Vigilare sui comportamenti, quindi osservare se ci sono delle variazioni dei comportamenti, come diceva Maurizio, ci sono dei segnali se il ragazzo a un certo punto non si rifiuta di andare a scuola e c'è sempre stato andato volentieri, se ad un certo punto comincia ad avere difficoltà nel rendimento scolastico, se accusa dei sintomi insonnia o vari disturbi psicosomatici o anche la depressione o comunque stati di ansia, crisi di ansia che fanno preoccupare, oppure passa molte ore in camera sua, non parla, smette di parlare. Insomma, ci sono dei segnali che poi, tra l'altro, appunto sono descritti nella guida, che fanno pensare, che possono allertare il genitore così come l'insegnante. Questo è quello che può fare, e informarsi, perché oggi appunto noi adulti non siamo nati, no, in quest'era, in quest'epoca in cui per noi non ce l'abbiamo proprio nel nostro DNA, per cui l'abbiamo appresa e ancora la stiamo apprendendo, almeno insomma per quanto mi riguarda. E i ragazzi sono ovviamente molto più facilitati, io notavo come bambini piccolissimi come riescono a usare, insomma, no, col dito, insomma, a scorrere sul telefonino con un'estrema facilità, come se l'avessero sempre fatto, come, no, ma neanche l'hanno, ma da dove l'hai visto, ma dove l'hai osservato, bambini piccolissimi, per cui è cambiata l'era, è cambiato l'apprendimento, sono cambiate tante cose. È chiaro che bisogna informarsi, bisogna stare al passo coi tempi, a quantomeno il più possibile, o comunque aggiornarsi e capire, ecco, appunto, potenziali segnali e cosa poter fare per evitare che poi veramente accadano delle tragedie, perché le tragedie accadono e stanno accadendo. Sì. Allora, sì, facciamo vedere questi video di cui abbiamo accennato, prima di poi passare alla conversazione, insomma, no, al confronto. E perché abbiamo portato questi video fatti da studenti? Perché, allora, voi sapete che, diciamo prima, come oggi le informazioni che ci arrivano spesso sono informazioni soprattutto, diciamo, drammatiche, no? Per esempio, avete notato come se noi accendiamo, no, il televisore, andiamo su qualche programma serale, anche in prima serata, quello che accade spesso è che questi programmi cercano di spettacolarizzare, no, quella che è una tragedia, quindi ce la ripropongono per lungo tempo, no? Per tantissimo, a volte anche per anni, no? Insomma, ecco, questo accade probabilmente perché sappiamo che, insomma, come dire, i drammi attirano molto la nostra attenzione, quindi chiaramente probabilmente molti ci dicono oggi, gli esperti del marketing, questo aumenta l'audience e quindi aumentano anche le entrate economiche di tanti programmi televisivi, no? Però dobbiamo stare attenti, cioè noi dobbiamo anche noi adulti diventare consapevoli di che cosa accade intorno a noi, no? Perché quello che stiamo notando nelle nuove generazioni è che queste informazioni che noi adulti riceviamo, genitori, insegnanti, zii, nonni, eccetera, no? Poi in qualche modo vengono trasferite anche ai più piccoli, adolescenti e anche ai bambini. Cioè, sentirsi dire tutti i giorni, no? Recepire sempre informazioni negative, questo non vogliamo dire che non dobbiamo conoscere la realtà. Certo, dobbiamo conoscere gli aspetti anche tragici, alcuni aspetti della tragedia della realtà di oggi, però fortunatamente non c'è solo questo intorno a noi. Quando noi raccogliamo i disegni dei bambini o i commenti degli adolescenti scritti, beh, sembra dal loro immaginario che fuori da quella finestra, nel mondo, c'è un mondo che è catastrofico. cioè solo catastrofico. Questo che cosa comporta spesso? Comporta la diminuzione della mancata di speranza, no? Cioè, tanto è vero che oggi molti ragazzi cominciano a studiare, a volte studiano meno, si disinteressano in alcuni casi, no? Come dire, beh, tanto chi ce lo fa fare, no? È come se tirassero un po' in barca, anziché dire, ma guarda, se c'è un po' di corrente, remiamo un po' più forte, allenatevi, vedrete che poi la corrente riuscirete a fronteggiarla e comunque andrete avanti, no? No? Spesso tirano i remi in barca, quindi tanto, voglio dire, tanto è tutto inutile, no? Tanto non avrò il lavoro, tanto non avrò questo, tanto c'è la violenza. Ma insomma, voglio dire, noi siamo stati, Antonella, per tanti anni dentro un servizio psicologico nell'Università di Roma, abbiamo visto migliaia di studenti, no? E tra questi studenti, ventenni, tantissimi, veramente tanti, facevano volontariato, fanno volontariato, aiutano altri giovani in difficoltà, aiutano famiglie in difficoltà, aiutano, vanno nelle mense, prestano le loro ore per aiutare le persone che non possono mangiare, che non hanno soldi per comprarsi da mangiare. Io non leggo nulla di tutto ciò sulla stampa, sui giornali, in televisione, cioè non arriva a noi, non arriva neanche ai ragazzi più giovani, non arrivano quelle informazioni, quella parte della realtà che c'è ma non si vede, che c'è ma che non fa notizia, che non fa audience, che non interessa, ma che non interessa a nessuno dire queste cose. Queste cose vanno dette a chi ha, tra l'altro questo è l'esempio del volontariato perché è un'esperienza diretta che abbiamo avuto per tanti anni, ma potremmo portare tanti altri esempi. Io parlavo qualche settimana fa con un economista che mi spiegava, dato che non siamo economisti, però siamo curiosi e quindi siamo messi a chiedere informazioni, e ci diceva come alcune aree della nostra economia italiana stanno andando molto bene. Per esempio, molti giovani si sono organizzati in questi ultimi anni, in questi ultimi tempi, in modo cooperativistico, nel mondo della cooperazione, per entrare nell'ambito dell'agricoltura di qualità, cioè proprio come il biologico, no? E cioè, il biodinamico, eccetera eccetera, che negli ultimi anni praticamente credo che sia addirittura triplicato come fatturato, no? Ma avete letto qualcosa di questa notizia in giro? Avete visto un servizio in qualche programma televisivo nazionale? Ecco, non mi sembra, no? Adesso gli esempi possono essere tanti, no? Qualcuno una scuola, un ragazzo ci ha proposto, perché non facciamo il TG delle belle notizie, no? Dico, sarebbe una cosa molto carina, perché non esiste, non ce la fanno. Però allora dobbiamo stare attenti anche alle cose che diciamo, perché le parole poi vanno a sedimentarsi dentro di noi, soprattutto in una mente adolescente, una mente del bambino, e quello che noi diciamo poi viene incorporato, diventa la realtà. Allora, perché, tornando al discorso, perché avevo questi video? Perché questi video sono stati realizzati da ragazzi di 15 anni, 14 anni, con i loro smartphone, con loro sono attori, registi, chiaramente sono fatti in maniera molto amatoriale, ma quello che è importante è proprio il prodotto in sé. Perché? Per questi ragazzi che a un certo punto trascorrevano molto tempo chiusi nelle loro stanze davanti ai loro videogiochi e si erano resi conto che si stavano isolando, che non andavano più a giocare a pallone, che non uscivano più con le loro amiche, che non c'era più una pizza insieme, hanno cominciato a dire, riflettendo insieme a noi, hanno già detto, ma perché non facciamo qualcosa anche nel pomeriggio insieme a scuola, non torniamo e facciamo. E è nato un laboratorio, è nato addirittura una rivista online e tutor web, è curato solo esclusivamente dai ragazzi, tutto autogestito. Hanno iniziato a fare questi video sul bullismo, cyberbullismo e adesso e altri video che stanno facendo, chiaramente con. Allora hanno cominciato ad essere non più vittime, non più passivi, no? Di fronte a queste problematiche, ma sono diventati agenti attivi. Cioè, lo smartphone non è più quella cosa per cui dobbiamo consultare gli altri, dobbiamo, no? Oppure andare a cercare chissà quale sito pericoloso, eccetera, ma lo usano in modo strategico, in modo utile e anche divertente, perché non dimentichiamo che c'è anche tanto divertimento dentro questi video. Cioè, loro si sono divertiti da pazzi proprio per fare queste cose, le abbiamo visti all'opera e sinceramente è stato un gran divertimento, e hanno fatto anche però un lavoro molto utile, perché perché noi sappiamo che un video fatto dai ragazzi usano il linguaggio che usano anche gli altri ragazzi, magari a volte il nostro linguaggio da adulti magari è lontano dal linguaggio che usano, a volte noi non capiamo alcuni termini, ci li facciamo spiegare, ma che cosa vuol dire questo? Poi ogni città, tra l'altro Roma magari avrà il suo gergo lessicale, poi Bolzano avrà un altro e così via, per cui anche lì, allora il fatto che hanno fatto loro ci è sembrato molto importante. Adesso andiamo a vederli e poi commentiamo e ci dite anche voi, ci fate domande e qualsiasi altra cosa. Iniziamo con quello con internet, c'è il primo che riguarda proprio che cos'è internet, decalogo mi sembra, vero? Sì. Posso partire? Sì, allora faccio, aspetta che mi hai spiegato come fare per... L'audio? No, l'audio c'è già. Ho già aperto. Aspetta che mi diceva che è meglio fare così, qual è questo? Sì. Ok, apri con... Sto seguendo le informazioni. Allora... Eccolo qua, in questo modo qua, perfetto. Ok, ti devo togliere l'audio. Questo è un po' più basso. Questo? Questo? No? Fatto? Ho fatto qualcosa? Basta. Voleva ok, pensavo stavo spegnendo. Ciò che si scrive su internet poi non si cancella, loro rimangono sempre un po' non incredibili, ma com'è possibile? Io l'ho cancellato quello che ho scritto. Sì, tu l'hai cancellato, ma comunque rimane, quindi per questo loro poi diventano più consapevoli, no? Sono più attenti quando scrivono e quindi sono un pochettino più, no? Diciamo consapevoli. Rispetto alle bufale e anche lì, sono tutte più piccolini, nell'età diciamo preadolescenziale, nella prima, seconda media. Insomma anche alla scuola elementare in realtà come dire molti abbiamo fatto degli esperimenti quando una cosa la leggono su internet subito dicono l'ho letto su internet, andiamo a verificare e poi si scoprono quella cosa è una, come dicono loro, una bufala, cioè nel senso che no, intendono dire che comunque non è vero niente, sono tante cose, notizie false, questo anche va detto e vanno allenati anche i ragazzi a scuola a riconoscere, a andare a verificare notizie quando è veramente vera e quando invece non lo è, no? Quindi, ok, bene. E adesso vediamo un altro video. Ok. Questo è quello sulla disabilità. Ah, sì. Bene, vediamo anche allora questo. Questo è stato fatto riguardo alle disabilità, in realtà, non è proprio il tema del bullismo, però siccome questi ragazzi hanno avuto un'esperienza a scuola in cui venivano bullizzati dei ragazzi con delle disabilità fisiche, allora loro hanno fatto questo video, quindi comunque rientra sempre anche nel tema del bullismo, che però che riguarda proprio il tema delle disabilità e delle abilità. Ok, andiamo a vederlo. Consapevolmente, sì. Vero? No, sbagliato. Qual è? Va bene uguale? Sì. No, anzi no. Vedo che... Vedete che... No, dico, vado là. Cancello. Non sono un nativo digitale, non sono nato con il DNA. Il mio DNA non è stato programmato, quindi lo potevo apprendere. Non solo dello smartphone, della videoregistrazione, del montaggio, no? Tutte cose che loro si appropriano e quindi acquisiscono anche nuove competenze che poi veramente tra alcuni loro serviranno anche per il loro mondo magari del lavoro di domani, chissà, no? Adesso andiamo a vedere un altro piccolo brevissimo video, e questo riguarda loro hanno avuto una compagna di classe che si comportava, insomma, lei si alzava la mattina e già scriveva sul suo diario oggi chi devo insultare? E passa tutto il tempo con lo smartphone, con il telefonino, a insultare gli amici. Chiaramente era una ragazza che veniva da una situazione un po' di una situazione in cui si sentiva molto sola, aveva pochi spazi di socializzazione, però poi l'hanno aiutata e quindi poi lei è entrata a far parte anche, diciamo, di questo gruppo di lavoro. E poi ho fatto questo video per descrivere la giornata tipo di questa ragazza. Adesso andiamo a vedere. Ecco la Next Generation. Questo video è quello che ha colpito di più i ragazzi, perché veramente si sono sentiti in qualche modo vicini, e quindi la nostra, portandolo nelle scuole, questo è stato, insomma, uno dei video più toccanti. Ora l'ultimo video che andiamo, insomma, a vedere è un po' diverso dagli altri, perché questo video nasce da un'indagine che è stata condotta in molte scuole italiane, in cui appunto è stato chiesto ai ragazzi perché non sono diventato bullo, cioè invece di concentrarsi sugli aspetti negativi, ovvero appunto, come dicevamo prima, sulle cause del bullismo, appunto ci si è chiesti: ma io come ho fatto per diventare bullo? Che cosa ha fatto sì che io potessi non diventare bullo? E da questa indagine è venuto fuori quindi un decalogo dei motivi principali per cui questi ragazzi appunto non sono diventati bulli. Ora guardiamo l'ultimo. Sì, esatto. Ai ragazzi sono veramente stati bravi. Allora io direi che a questo punto, se sei d'accordo, proviamo un pochettino a aprire un po' il dibattito, se ci sono domande, considerazioni, esperienze personali e quant'altro, insomma, noi siamo a disposizione per confrontarci. Sì. Poi quando una candidatura potete ovviamente prendere la guida che è qui a vostra disposizione. Prego. Buonasera, sono Thomas e abito a Bolzano. Vi ringrazio per aver organizzato questo incontro, perché purtroppo sono rari nel rapporto alla gravità della situazione, come avete ben descritto prima nei vostri interventi. Avrei parecchie domande e anche diverse considerazioni, però appunto non polemizzare il discorso per permettere a tutte le persone che sono qui di intervenire. La prima cosa che vorrei dire è questa: di cosa ci stupiamo? Perché quali sono le responsabilità maggiori in queste situazioni? D'altronde cosa abbiamo seminato? Il signor Maurizio prima ha parlato dell'importanza delle parole, del linguaggio, ha utilizzato spesso il termine consapevole. Allora mi domando, consapevole che cosa? Chi consapevole? In un altro video sono stati citati 4 articoli della Costituzione della Repubblica Italiana. Il secondo comma dell'articolo 3 sancisce che è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ma la Repubblica chi è? Cos'è? Dov'è? Quindi, insomma, ripeto, la tematica è importante, vorrei un argomento mettere anche in considerazione. Grazie. Vediamo se c'è anche altre domande, così magari qualche altra considerazione. Io ero interessata a capire se avete anche esperienza diretta delle famiglie che hanno ragazzi che fanno azioni di bullismo, se incontrate, se c'è stato nel vostro percorso anche uno spazio per loro, e se sì, cosa succede, quali sono le vostre considerazioni rispetto all'intervento poi non preventivo, ma laddove la situazione poi è già accaduta come frequente. Certo. Sono sicuramente molto più frequenti i casi, frequenti nel senso non più frequenti, i casi sono frequenti anche di bulli, però è molto più facile che le famiglie chiedano aiuto quando sono vittime di bullismo, nel senso che spesso quando si ha un figlio che si comporta da bullo c'è da parte della famiglia la negazione che il proprio figlio stia facendo il bullo, quindi non è possibile o comunque anche di fronte a un magari appunto una anche una denuncia, non è facile per il genitore aiutare a far comunque maturare questa consapevolezza e diciamo che capita nel momento appunto in cui magari c'è proprio viene denunciato un fatto, comunque dalla scuola il preside manda a chiamare i genitori e questi genitori poi vengono informati su quanto è accaduto, però ecco, purtroppo non ripeto, c'è proprio un vissuto di negazione e lì bisogna, come dire, insomma, il nostro compito è stato quello di intervenire un po' in punta di piedi, no? Perché per evitare poi una ulteriore chiusura, perché laddove già c'è una consapevolezza di quello che è accaduto al figlio, siamo già a metà dell'opera. È quello, no? Questo insomma un po' per rispondere, che è molto, molto meno frequente che accade, cioè accade proprio nei momenti in cui le famiglie sono chiamate proprio dal preside. Il nostro intervento è quello di sicuramente di informare e di far capire che alle famiglie che esiste proprio una differenza tra quello che è lo scherzo e quello che è il bullismo, perché spesso insomma la distinzione tra lo scherzo e il bullismo non sanno farla, e quindi vanno sicuramente aiutati anche loro a prendere consapevolezza, però anche a non questo vissuto di negazione va capito perché non è facile, no? Spesso per esempio anche c'è da genitore quando scopre che questo figlio, sua figlia, magari non in un contesto della scuola o di altro tipo, si comporta in maniera molto aggressiva, addirittura violenta, rimangono sbalorditi, appunto, proprio come diceva Antonella, non può essere mio figlio o mia figlia, perché poi a volte i figli hanno comportamenti diversi, no? A casa e fuori di casa, magari a casa temono più non so, il papà o la mamma, oppure no, oppure hanno poi paura di essere puliti, oppure hanno paura di avere la paghetta, insomma, e quindi sono più apparentemente tranquilli. Poi magari arrivano a scuola in un contesto di altro tipo con i coetanei, il gruppo, e lì si scatenano tra loro, no? È chiaro che poi ci sono tante situazioni diverse che a noi capitano, no? Per esempio capita una famiglia che in cui voi sapete. Ecco, si parlava prima, Antonella ci parlava della rabbia come emozione, no? La rabbia è uno degli aspetti, diciamo, fondamentali per capire spesso il fenomeno di bullismo e quindi anche l'aggressività che ne consegue, no? E diciamo che se noi pensiamo alla nostra di rabbia, no? Quante volte noi ci sentiamo arrabbiati? Immagino tante volte. Studiamo e ci non so, tagliano una strada e ci arrabbiamo, piuttosto che ne so, subiamo delle ingiustizie e ci arrabbiamo, ci trattano male al lavoro e ci arrabbiamo, no? Ecco, e chiaramente così per un adolescente è la stessa cosa, può subire una serie di situazioni o familiari, di disagio, magari non parla abbastanza in famiglia. E quindi magari subiscono una serie di situazioni che però sono pesanti, oppure subiscono altre situazioni in gruppo, eccetera. Questa rabbia poi può scociare appunto in aggressività, in alcuni casi in violenza. Quindi come si interviene? Interveniamo ovviamente su queste emozioni, appunto, come dicevamo, no? Cioè su come in qualche modo aiutare l'adolescente a canalizzare questa aggressività, no? A riconoscere innanzitutto. Questo vale anche per noi adulti, no? Se siamo molto arrabbiati e rischiamo di fare male a qualcuno o di fare male a noi stessi, no? È chiaro che il primo percorso da fare è riconoscere la nostra emozione e poi, insieme a qualcuno che ci può aiutare, che ci fa un po' da guida, no? Che ci aiuta a canalizzare queste emozioni senza che diventino distruttive né per gli altri né per noi stessi. E le strategie poi sono diverse, no? Noi per esempio facciamo laboratori anche di mindfulness nella scuola, che sono quegli esercizi che aiutano a gestire meglio la rabbia. Ovviamente lavoriamo anche sugli aspetti, noi diciamo, psicodinamici, cioè un pochettino più profondi, no? Da dove nasce questa rabbia? Cominciamo a parlare con i ragazzi e si scopre che magari che hanno avuto una serie di... A volte, questo per dire che non è che sembra poi il genitore responsabile, magari ci può essere stato... semplicemente, non so, un butto in famiglia, no? È morto il nonno, è una perdita magari per quel bambino, quella bambina, quel ragazzo molto importante, poco elaborata sul piano emozionale, è rimasto qualcosa dentro che poi porta questa rabbia, questa nuova rabbia della perdita, ad agirla contro gli altri. Magari l'insegnante dice, ma fino a qualche tempo fa stavo tranquillo, seguivo a scuola, da un po' di tempo è diventato impossibile, attacca gli altri, fa il bullismo, eccetera, eccetera. Poi si va a vedere la sua storia di questo ragazzo e si scopre semplicemente che magari da lì poi si è innescato una serie di meccanismi. Quindi poi ogni storia è una storia a sé, no? Ogni episodio di bullismo poi va analizzato nel suo, diciamo, contesto personale, familiare e sociale in base a cui vive. Diverso invece il discorso, per tornare al discorso della sua domanda, no? della società anche, no? Dello Stato, degli interventi istituzionali, lì appunto si può fare tanto rispetto appunto, diciamo, nell'ambito della prevenzione, però affinché poi, perché c'è una nuova legge, diciamo, sul cyberbullismo che è del maggio scorso del 2017, però noi sappiamo tutte le leggi affinché poi possano funzionare occorre la collaborazione di tutti, cioè tutti dobbiamo essere, no? Come dire, agenti attivi, non essere vigili, attenti, lavorare insieme, fare rete insieme, la comunità insieme, per poter poi risolvere questi problemi, perché le leggi ci possono essere, ma la legge no, cioè la legge poi deve portare una conseguenza che tutti siamo partecipi insieme. Pensare di sconfiggere, scusa, che il bullismo, sì, insomma, è un po' illusorio, no? Cioè, quello che possiamo pensare è di trovare nuove forme per affrontarlo e per prevenire, ma insomma eliminarlo del tutto mi sembra, insomma, non mi sento di dire possiamo, no? C'è una legge che elimina il bullismo, no, quindi insomma io personalmente non ritengo che si possa fare, ritengo che magari possiamo trovare delle strategie per prevenire e contrastarlo il più possibile, quindi questo sì. Un po' invece per ritornare alla signora, io volevo dire un'altra cosa che è molto difficile con queste famiglie, perché oltre a negare c'è anche una proiezione, cioè nel senso, non negando il problema, non riconoscono che il problema possa essere eventualmente dentro il loro ambiente domestico, per cui c'è proprio un proiettare fuori, l'insegnante è cattiva, la scuola è sbagliata, il compagno è antipatico. Quindi insomma, diciamo che è un lavoro un pochino più lungo, no? Dove c'è anche lì, insomma, aiutare poi queste famiglie a essere consapevoli, dove poi ci sono sicuramente delle responsabilità, quindi c'è una da parte nostra, c'è un intervento di accogliere quello che arriva, ma anche l'intervento di far capire come uscire fuori da un ruolo di vittime e quindi sentirsi comunque adulti responsabili, perché comunque lo siamo, ecco, cercare di uscire fuori da queste logiche di è colpa tua, c'ho ragione io, ma insomma, no, prendersi delle responsabilità, però è un lavoro un pochino più lungo, cioè un lavoro che poi sfocia un po' più in una, come dire, insomma, in una psicoterapia, perché comunque non può essere fatto un intervento, un seminario in cui si spiega perché fai bullo e perché subisci o perché diventi bullo. È chiaro che le difese sono talmente alte che vanno, ovviamente, come tutte le difese, non possiamo smantellarle, perché queste famiglie con pochi strumenti, questi poveri crollano, e quindi vanno accolte e poi piano piano aiutati a capire la loro parte di responsabilità e comunque anche la responsabilità anche della società in cui viviamo, perché comunque c'è. Perché io, quando prima ho detto, ho spiegato un po' le cause dal punto di vista psicologico, non per dire allora siccome c'è uno stile educativo di questo tipo diventa accademico, assolutamente no. Abbiamo selezionato delle cose da dire, e quindi la parte psicologica legata alle emozioni per noi è importante dirla, perché questo è quello che può fare la famiglia, no? Cercare di quantomeno, insomma, di aiutare i figli a familiarizzare con le proprie emozioni, ma non sono capaci con le loro, quindi è molto difficile poi, no? Questo, fare questo passaggio. Quando ci chiedono, per esempio, no? I genitori ci dicono, ma non capiamo perché quando mio figlio torna a casa, noi diciamo, che cosa hai fatto oggi a scuola? Una volta ci rispondono la stessa cosa, no? Ma in realtà, quando un genitore chiede a un bambino, a un adolescente, cosa hai fatto oggi, no? Ma se poi mi chiedessero che cosa avete fatto oggi, non so, se siete andati al lavoro, in ufficio, no? Ogni giorno, poi alla fine succedeste e direste, beh, che ho fatto le solite cose, allora i genitori rimangono meravigliati, no? Ma chiedere, a volte come diciamo tutto il linguaggio delle parole, no? Cioè allora, se noi chiediamo che cosa hai fatto a scuola, in realtà spesso dietro questa domanda si nasconde un po' l'ansia del genitore che vuole essere rassicurato sul rendimento scolastico, quindi quante cose hai fatto a scuola, cioè in realtà poi alla fine si vuole sapere un po' quanto hai preso la valutazione, l'interrogazione, cose di questo tipo, e per i ragazzi diventa molto noioso rispondere, però il libro è questo, lo può prendere. Sì, grazie. Allora, pensate invece a una domanda diversa, no? Se noi, quando noi consigliamo di chiedere ai figli, ma come sei stato oggi a scuola, come sei stato, già si sposta l'attenzione. In genere i ragazzi non hanno rotto più, no, sono presi la domanda e tendono a rispondere, no? Perché vedete la differenza, no? Cosa hai fatto oggi a scuola che indica un'ansia di sapere come è andata, quanti voti hai preso, che voto hai preso? Come sei stato non ha a che fare con la quantità di cose che abbiamo fatto, quanti voti abbiamo preso, ma come siamo stati? Se noi chiedessimo come siete stati questa mattina, come siete state ieri, cosa avete fatto con chi, con come siete state? Sulla sentire anche un po', anche sull'aspetto emozionale, come sono stato, ma così così abbastanza bene, mi sono divertito, no, mi sono annoiato, poi sono stato con l'ho incontrato tizio così cosa, quindi a volte anche, quindi quando diciamo le emozioni, creare in gioco le emozioni anche in famiglia come a scuola è molto importante, perché poi si ricorda subito la differenza, così come è anche importante rendere più attivo oggi l'adolescente, no? Cioè una scuola che tende troppo a passivizzare i ruoli, no, degli studenti, in realtà poi subentra noia, subentra demotivazione, subentrano una serie di fattori che non aiutano la socializzazione. Lì anzi è più facile che accadano poi episodi di bullismo, dove c'è noia, dove c'è, no, subentra proprio di rabbia. esperienze come queste dei ragazzi che fanno i video, laboratori attivi, laboratori in cui i ragazzi fanno cose concrete, beh, questo fa la differenza. Anche i ragazzi più iperattivi diventano meno iperattivi, si calmano subito quando hanno qualcosa di interessante da fare, che si impegnano, che si sentono che loro sono protagonisti, che non sono soltanto lì, no, ad ascoltare per 5-6 ore, no, la classica lezione, anche ancora oggi purtroppo si fanno spesso ancora lezioni solo frontali sul gruppo classe, anziché, cioè, spesso si è capito che rispetto alla scuola, che il gruppo classe è una risorsa per l'apprendimento e deve essere utilizzato il gruppo per l'apprendimento. Non si può pensare soltanto alla lezione frontale in cui uno parla e basta, ma ci deve essere un lavoro in piccoli gruppi, ci deve essere una interazione, ci deve essere il ragazzo, la ragazza che si sente protagonista dell'esperienza stessa, che fanno cose in maniera anche autonoma, indipendente, autonoma, cioè, no, lo sviluppo. Io ho avuto modo nella mia vita di conoscere un po' alcune scuole montessoriane, no? Maria Montessori, che insomma era italiana, conosce tutto il mondo, molto poco l'Italia, no? Scopro che in Olanda tutte le scuole pubbliche sono montessoriane. Comunque, perché era così importante lei in molte parti del mondo? Semplicemente perché lei aveva capito che il bambino chiedeva che da piccolo aiutami a fare, affinché posso fare da solo, cioè non starmi sempre dietro passo passo, no? Con un modello troppo controllante, come purtroppo a volte accade ancora oggi in alcune scuole. Infatti noi siamo sempre in questo campo dell'aggiornamento con gli insegnanti per aiutarle proprio in questo compito, con i genitori anche, no? Cioè, allora il bambino che impara a fare da sé, il bambino che è sempre più attivo, no? E qui noi vediamo in queste scuole con il modello montessoriano, questi ispirano a questo modello, insomma, comunque dove sono molto proattivi, no? Il bambino che ha 5 anni si stira ai panni, coso che lava, che fa, che cucina, che apparecchia la tavola, no? Tutti lo fanno. Beh, voi vedete nello sguardo di questi bambini una luce diversa dagli altri bambini dove non fanno queste cose, perché loro lì sperimentano in prima persona cosa vuol dire essere indipendenti. Cioè si vede uno sguardo bambino, lo sto facendo io, sono io che faccio questo, non ho sempre bisogno dell'aiuto degli altri. Ma questo modello culturale non è facile da far passare sia in famiglia che a scuola nel nostro paese, no? Quindi su questo però c'è tanto da riflettere, perché il bullismo si può anche combattere anche in questo senso, rendendo i ragazzi più partecipi, no? Più attivi nell'esperienza che si fa a scuola, così come anche in famiglia. A volte si vedono bambini che non vengono coinvolti in attività pratiche, per esempio, no? A casa, no? E invece come è importante che il bambino partecipi da piccolino alle attività pratiche, perché il movimento fisico, come sappiamo, quando ci dicono oggi, no? Noi andiamo ai convegni e ogni volta sentiamo queste storie dei farmaci dati ai bambini piccoli per quanto riguarda questa, no, l'iperattività. Ma spesso l'iperattività non è un problema di natura organica, cioè lo può diventare come conseguenza, ma in realtà spesso nasce perché il bambino si annoia o può avere anche delle depressioni mascherate, ma questo è un altro discorso rispetto alle emozioni. Generalmente si annoia e in realtà comincia a dar fastidio a tutti quanti, ai compagni, alla maestra, alla mamma a casa, al fratellino, eccetera. Ma se quel bambino è messo in un contesto, inserito in un contesto attivo e partecipa e fa delle cose, non si annoia e non è iperattivo. Il bambino vuole solo, quando il bambino fa delle cose interessanti per lui, si vede proprio che ha una luce speciale negli occhi, perché si concentra su quella cosa. E quello è, per lui è il lavoro. Noi diciamo che il bambino sta giocando, ma no? Il bambino sta proprio lavorando in quel momento, è proprio impegnato con la mente lì, quell'attività, che sia pulire, tagliare cibo, che sia pulire qualsiasi cosa, o altre attività didattiche che possono fare. Quindi sulla prevenzione delle istituzioni c'è anche tutto questo da tener conto, cioè dei modelli che forse piano piano stanno cambiando sempre più, e noi ci auguriamo che sempre più questo modello, questi modelli siano, no, considerati da tutti quanti, insomma, cioè, famiglia e scuola insieme. Ah, scusa. Questi video sono nati direttamente dai ragazzi o da un laboratorio fatto con voi che poi ha portato? allora sono nati dai ragazzi come idea, poi nell'elaborazione è stata creata una redazione, però per fare la redazione la maggior parte sono tutti studenti. La cosa carina è che si sono messi insieme studenti della scuola elementare, scuola media superiore e due universitari, e è bello vedere la collaborazione tra bambini piccoli e più grandi, no? Perché anche lì nascono interazioni interessanti, no? Perché il grande si sente, non so, quello della prima media, si sente di poter aiutare quello più piccolo, dice, ah, fai così, fai così. Allora, si sente anche lui più importante, il piccolo, insomma, è tutta una. Quindi adesso loro, se volete, questo è tutto il web, lo trovate anche sulla guida, potete andare a vederlo il sito. C'è anche la pagina Facebook e chi vuole può chiaramente collaborare, ci sono anche i ragazzi presenti, se volete potete andare a vedere i loro video che sono sempre aggiornati, potete collaborare inviando qualsiasi cosa, inviando documenti, testi, parole, immagini, qualsiasi cosa che riguarda appunto un contributo al giornale, che però è diventato un vero giornale. Quindi è una piattaforma che continua ad essere... Sì, sì, certo, è sempre attiva, sia sul sito e tutto quello, ma anche sulla Facebook e sui vari social, lo trovate, ormai sono diventati, non mollano, ma vanno avanti. Ecco, a noi sembra che queste realtà, queste piccole realtà, poi diventano un contributo anche per combattere forme di cyberbullismo, perché, come dire, quando loro stanno bene insieme non si perdono chiusi in camera a lui a scrivere, no, quanto sei stupido, quanto sei così, quanto sei cos'ha, quanto sei brutto, quanto sei brutta, e tutto quello che poi, no, si fanno nei social, insomma, e quindi come? Forse sì, mi perdoni, ma perché Sali prima ha parlato dell'importanza del linguaggio, sì, delle parole, continua a utilizzare un termine che non aiuta a capire, cioè social, cosa vuol dire social? Penso che ci ricordiamo che inizialmente quando venivano utilizzati si chiamavano social network, certo. La traduzione sarebbe reti sociali, certo. E già questo è uno simbolo, una contraddizione, cioè lì dentro le reti sociali vuol dire che ci costringono, certo, a relazionarci lì dentro, e tutto ciò è disumano, tutto ciò è aggregante, cioè omologante. Quando ho cercato prima di dire ma di cosa ci stupiamo, cosa abbiamo seminato, cioè quello che stiamo vivendo oggi, già 50 anni fa già ce lo stavano anticipando pensatori come Foucault, Pasolini, la mutazione antropologica. Quindi cosa vogliamo fare? Continuare ad alimentare questa cosa? Questa cosa è già, quindi, presente, già presente, non è che no. Appunto, io sto dicendo, il futuro è già presente, ma è peggio di quello che non ci raccontano, non ci spiegano, perché lei prima ha detto, perché alcune informazioni passano, alcune informazioni non passano. Perché passano con un determinato tono, accento, taglio e non con un altro? Certo. Perché c'è la mercificazione anche di questo. E allora, ritornando alla mia domanda iniziale, ma perché continuiamo a puntare il dito a chi non è responsabile di tutto ciò? Cioè ogni giorno ognuno e ognuna di noi come vive? L'esempio, i modelli quali sono? Abbiamo capito che cos'è internet? Abbiamo capito che cosa sono questi affari? Esatto, allora, anche questo è il lavoro da fare, no? Ho capito, questo è il lavoro da fare. Lei prima diceva la collaborazione delle istituzioni. C'è presente qualche rappresentante della polizia postale, delle istituzioni? Ma sono molto presenti nelle scuole, però. Ho capito, però, ripeto, però sì, sì. Si parla al contesto in cui vengono fatti gli interventi. Allora, nelle scuole, ma l'esempio, cioè questi incontri pubblici, cercando di fare i salti mortali per essere presente, l'ho letto stamattina sul giornale e ripeto, vi ringrazio ancora. Perché non sono quotidiani? Perché non c'è un orario che va oltre le 7:30 di chiusura per confrontarsi? Il forum prevenzione a Bolzano, per esempio, che dovrebbe trattare queste tematiche, quando fa degli incontri, siamo 10-15 persone al massimo, e anche lì utilizzano sempre il solito linguaggio che non dovrebbe essere utilizzato, perché alimenti in continuazione. Cioè, pensiamo noi adulti, non parlo, ripeto, io non voglio puntare il dito su chi non è responsabile, cioè noi pensiamo di utilizzare lo strumento, cioè se, quando invece lo strumento che usiamo noi stessi, uno strumento che ha all'interno un'intelligenza artificiale, con algoritmi, che noi si stanno ironizzando sull'estinzione della specie umana. Cioè, ripeto, cioè, cosa stiamo parlando? Sì, ma è chiaro il discorso. Allora, siccome è una realtà esistente, no? Quindi ormai è una tecnologia, la rete, no, ma non possiamo banalizzarlo del tipo e ormai ce l'abbiamo, no, fa parte del lavoro di, cioè, quando lei ha accettato il lavoro, quando lei ha accettato prima la legge, sì, cioè pensiamo che questa legge vada a migliorare la situazione, non viene attuata e applicata la Costituzione, cosa deve essere applicata a questa legge? No, guarda, e poi le istituzioni stesse che dovrebbero mi scusi onorevole, io ben presente quello che sto dicendo, non sono venuto qui per prendere in giro le persone, vorrei non essere così in giro, perché stiamo parlando delle nuove generazioni, dei futuri cittadini e delle future cittadine. Quindi volevo solamente dire, le istituzioni, le istituzioni, se effettivamente avessero capito il fenomeno, non le utilizzerebbero a sua volta, perché tra l'altro non riescono neanche a pagare le tasse queste multinazionali. Allora, le tasse vanno pagate dalla cittadinanza, ma loro non riescono non le vogliono far pagare, però le istituzioni le utilizzano, e più i mezzi di comunicazione continuano ad alimentare tutto ciò, e la spettacolizzazione, perché vende. Allora, quando vogliamo uscire da tutto ciò? Perdonatemi, ripeto, vi ringrazio. Grazie. C'è anche un altro intervento? Poi rispondiamo. Ok. Ovviamente sono intervenuta e non volevo assolutamente interrompere, però si pone anche banalizzare quello che viene fatto, nel senso che qui adesso si sta facendo la presentazione di un lavoro contro il bullismo e apprezzo che venga ringraziata l'organizzazione, e quindi è evidente che non è qui che già si sta cercando di fare, che ci si può lamentare che altri non fanno. Altri non fanno, cerchiamo appunto che iniziative contro il bullismo nelle scuole, le situazioni nelle quali si possono verificare, queste vengano attuate. Rispetto alle leggi, è ovvio che appunto la mia esperienza mi porta a dire che succede che le leggi arrivino addirittura troppo tardi rispetto a quella che poteva essere il senso comune, la consapevolezza dei cittadini. Pensiamo a grandi leggi come il divorzio, l'interruzione volontaria della gravidanza e altre, cioè leggi che sono intervenute quando esisteva già un senso comune e una volontà generalizzata di prendere atto di realtà, e le leggi sono intervenute dopo. Qui, rispetto a questa situazione, siccome so, ovviamente conosco anche tutto il dibattito che c'è stato sul ciberbullismo e come si è arrivati alla legge, qui ci sono state alcune scuole che hanno denunciato e si sono attivate proprio rispetto a fenomeni che non erano in grado di gestire, e quindi hanno chiesto un supporto, un aiuto, la possibilità di intervenire anche con legge, proprio per incanalare la possibilità di arginare dei fenomeni. Allora, è evidente poi che le leggi mai bastano, è evidente, come è stato detto, che non basta scrivere una legge perché questa venga attuata, sennò ovviamente non ci sarebbe l'evasione fiscale, non ci sarebbero tante situazioni sulle quali le leggi già ci hanno provato a condannare chi evade, ma non è sufficiente. Però è importante rendere noto che delle situazioni esistono e quindi anche riuscire a dare strumenti perché possano essere messe in pratica sia la prevenzione che la cura. E questo è quello che si sta cercando di fare. Dopodiché, siccome la bacchetta magica non ce l'abbiamo, mi viene da dire anche purtroppo, ma comunque ognuno di noi deve anche cercare di fare degli atti che portino. Per esempio, in una delle scuole di Bolzano si dice anche che c'è un edificio talmente adeguato e in linea con quelle che possono essere le esigenze dei ragazzi, che quella è una scuola dove sembra che non ci sia il bullismo. Poi sarà vero o non sarà vero, è il collegio dei docenti che si vuole vantare del fatto che quella scuola non c'è, non lo so, può darsi, però voglio dire, magari invece altre scuole dove c'è un ammasso di studenti l'uno sopra l'altro dicono che, come nelle gabinetto P, c'è, si crea un'insofferenza. Anche quello è chiaro che non riesci ad allargare gli spazi in base da favorire immediatamente che ci sia un clima migliore, però se già ci si rende conto forse si possono attuare anche degli strumenti maggiori per evitare e quindi prevenire, oppure, se proprio ormai succede, curare. Certo. Io non parlo di internet, non parlo di internet, non parlo di leggi, io parlo da vecchia nonna. Ai miei tempi, quando uno si comportava male, o si dice, lo vado a dire al mio fratello più grande, o lo si diceva ai genitori, le cose venivano fermate immediatamente. Al giorno d'oggi, invece, come avete detto voi, abbiamo il prosciutto sugli occhi, si cerca di non vedere. Perché non vogliamo vedere? Perché non abbiamo il tempo. Io non do la colpa ai genitori perché lavorano dalla mattina alla sera. Però abbiamo visto quella ragazzina che si è alzata da sola, è andata a vedere nel frigorifero, non c'era niente da mangiare. È andata in classe nascosta sotto un cappuccio e il professore, quando ha visto che scriveva, semplicemente l'ha sgridata. Tutto questo non è successo solo quel giorno. Questi ragazzini, lei dice, devono arrangiarsi da soli, devono riunirsi. Ma allora, se non si può contare sui genitori, non perché per cattiveria, ma è così, per ignoranza o perché non hanno il tempo, perché la scuola e le istituzioni non hanno il potere di farlo. Io giuro che nella scuola un insegnante non può fare niente, niente non può, perché appena fa un passo in più esce da quello che può fare, non so come dire, può essere subito giudicato, può essere il ragazzino che dice io ti denuncio, sì, o cose del genere. Un poliziotto che vede della violenza per la strada deve stare attento che non vada lui nei guai. Veramente, se noi vogliamo che queste cose non succedano, intanto vediamo nel nostro piccolo orticello, a casa nostra, con i nostri figli e con quelli che ci sono intorno a noi, e poi si guarda il resto. Ma finché si parla soltanto per teoria e basta, e la cosa non succede a me, succede soltanto agli altri, e intanto in televisione vanno soltanto telefilm e filmati in cui c'è violenza e donne che vengono ammazzate e telefilm in cui si vede soltanto che dissezionano cadavere, ma come facciamo ad andare avanti? Quando ero ragazzina io e andavano i ragazzi a fare la leva, tornavano e dicevano, sì, perché mi hanno fatto questo, mi hanno fatto quell'altro. Sapete cosa dicevano i vecchi? Devi imparare a stare nel gruppo. Quando si esagerava, il militare, chi comandava, qualcosa faceva per aiutare queste persone, ma era una scuola anche quella. Io sento invece adesso dei genitori che dicono, ma mio figlio è un maschio, allora bla bla bla bla, aprite le porte che adesso arriva lui e questo ragazzino ha il permesso di palpare le... Insomma, se i genitori sono stupidi, scusate, oppure non sono preparati, però noi dobbiamo non chiedere ai ragazzi di arrangiarsi, di fare i gruppi, di autoanalizzarsi, ma dire nella scuola, nella polizia, i cittadini stessi che vedono le cose devono intervenire, devono avere il permesso di farlo. E non che ci siano sempre degli shrank, delle barriere che tu non puoi superare. fatti i fatti tuoi, ma cosa vuoi puttana? Ma lo sapete quante volte me l'hanno detto sull'autobus o in piazza? E non c'è nessuno che può aiutare una persona a fare il suo dovere civico, e questo mi dà un grandissimo fastidio. Io sono d'accordo che voi come psicologi, come persone preparate, potete parlare con i ragazzi, ma se non interveniamo noi adulti, i ragazzi saranno sempre più soli e questa cosa non si risolverà mai. Ok, ci fa molto piacere ascoltare, no, le molteplici voci, interventi, perché come abbiamo detto questi momenti di confronto ci sembrano così preziosi e importanti, e poi è chiaro che ognuno di noi si fa portavoce, no, nella propria famiglia, nel proprio contesto di quartiere, di scuola, no, si fa portavoce delle conoscenze che apprendiamo e del nostro arricchimento anche, no, che è culturale, che è sociale. Parlare di un fenomeno come questo è sempre molto, come dire, no, sempre molto difficile, perché va a toccare delle corde anche particolari, no, su ognuno di noi. Ecco, e come io per esempio quando dicevo che ricordo anche ai miei tempi, quando ero ragazzino, no, ciò che accadeva del bullismo, però non sapeva il coraggio di parlare, perché appunto spesso i contesti non ti permettevano di denunciare, di parlare, anzi venivi preso in giro, perché se dicevi che venivi bullizzato venivi preso in giro anche tu, perché dici, beh, come mai l'altro non reagisci, no, con violenza anche tu, e quindi si innescava un meccanismo, no, della legge dei più forti, che poi provocava, no, si andava sempre peggio. Allora oggi il fatto che ci sono momenti preziosi e importanti come questi, noi vi ringraziamo per averci invitato qui oggi a Bolzano in questa sede, tra l'altro molto bella, e ringraziamo anche la rete di Bolzano, perché questi momenti sono momenti, no, anche se a volte conflittuali, a volte ovviamente con idee, ognuno, no, con idee a volte anche diverse, però ci arricchiscono tutti quanti. Eravamo l'altro giorno in una scuola media romana, e, anzi no, era scuola elementare, per il telefono, ci dicevano dei bambini di scuola elementare che magari che rispondevano al telefono e poi ci hanno detto proprio pubblicamente davanti a tutti che ricevevano telefonate del tipo di persone che chiedevano loro il nome, l'indirizzo di casa, e spacciandosi, non so, magari per l'Enel piuttosto che, non so, telefonie, compagnie telefoniche. Allora abbiamo spiegato a questi ragazzi come fa anche fare la polizia postale, che non bisogna mai, questo l'abbiamo scritto anche sulla guida, mai dare informazioni private a nessuno sul telefono, se non sappiamo con chi stiamo parlando, no? Perché è molto pericoloso, perché poi da questi dati, se sono persone malintenzionate, possono venire o a derubarci, oppure magari, che ne so, pure contattano di nuovo questi bambini, gli danno, insomma. Allora, questa, quando diciamo consapevolezza, intendiamo anche dire che ognuno di noi, fin da piccolino, cioè diventa più consapevole anche delle risorse di uno strumento, ma anche dei rischi che si corre, allora sì che si diventa cittadini attivi, no? Perché se sappiamo, appunto, così come lei sta denunciando una cosa importante, le dice, no? Quando io sono sull'autobus e mi sento, no, magari o non rispettata, addirittura, no, accusata o con delle, no, offese, eccetera, poterne parlare, no? Ecco, nel proprio quartiere, in città, con altre persone, è questo che secondo noi rende ognuno di noi più capace e anche più cittadino attivo, non il silenzio. Ecco, dei ragazzi sulla guida, che poi leggerete, hanno scritto una cosa molto bella in una scuola superiore, hanno scritto: il silenzio non aiuta mai il silenzio, aiuta la comunicazione, aiuta il confronto, anche idee diverse, ma che si confrontano, tutti cresciamo, perché appunto dal confronto poi possono nascere idee, soluzioni per qualcosa di nuovo, e soprattutto l'obiettivo è sempre quello di come stare bene insieme, no? Che sia il contesto scolastico, un gruppo di ragazzi, che sia un gruppo di genitori, che siano, no, appunto cittadini che camminano per la strada o che prendono un autobus. Come il tema di oggi è un po' il tema delle convivenze, no? Come convivere insieme e mettere insieme le diversità di tutti, perché ovviamente oggi conviviamo in un mondo in cui ci sono, no, tante complessità, tante diversità. La sfida soprattutto dei più giovani è proprio questa, no? Come imparare a convivere con le diversità. Noi ci auguriamo che questo sia possibile. E non so se sì, prego. È chiaro che un singolo intervento preso così singolarmente rischia di essere un po' banalizzato, no? Però va visto in un contesto più allargato, come un insieme di interventi che possono comunque cominciare a dare degli input perché poi se ne possa parlare, perché è chiaro, queste iniziative dovrebbero ripetersi, cioè, giustamente, no? Preso così può essere così, insomma, non appunto, cioè, a cosa serve? Però insomma non è quello il punto, cioè, l'obiettivo non è quello di fare un intervento che possa essere risolutivo, possa parlare del problema e analizzarlo sotto diversi punti di vista. È chiaro che parliamo di alcuni aspetti di un fenomeno così complesso e comunque non, che non è un fenomeno attuale, appunto, un fenomeno è una cosa, è antico, se ne parla da tanto tempo e troppo se ne parlerà ancora, però insomma già, è già un fare qualcosa. Questo volevo dire rispetto all'intervento preso così singolarmente di oggi. Per quanto riguarda la signora, volevo dire, allora, è chiaro che vanno aiutati sia gli adulti sia i ragazzi, perché allora, gli adulti vanno aiutati a capire che i loro comportamenti hanno delle conseguenze, ma gli va proprio detto, perché non lo sanno. Il problema è sempre l'inconsapevolezza, il non sapere che un tuo comportamento ha determinate conseguenze. Quindi, in un modo elementare, gli va detto: se tu ti comporti così, questo tuo comportamento potrebbe scatenare e provocare una risposta comportamentale in tuo figlio di questo tipo. Quindi vanno proprio, come dire, insomma, informati proprio così, in modo elementare su questo. Per quanto riguarda i ragazzi ugualmente vanno aiutati intanto a capire i ragazzi che sono bulli, che fanno i bulli, a capire in realtà che cosa c'è dietro quella rabbia, qual è il vero motivo per cui sono arrabbiati, qual è la vera causa che poi li porta a comportarsi in un determinato modo, provocatorio, appunto violento verso gli altri, ma il motivo non è per la rabbia o perché effettivamente arrabbiato con l'altra persona che diventa appunto la vittima. Va aiutato a capire che ci sono delle frustrazioni e delle appunto delle rabbie proprie vissute per la maggior parte delle nate generalmente in famiglia, che lo portano poi a spostare su un comportamento di un certo tipo. Per quanto riguarda i bulli, per quanto riguarda le vittime, vanno aiutate a parlare con chi è vittima di bullismo, anche se non c'ha una famiglia dietro, dei genitori che riescono a prendere in carico il problema, a farsi carico del problema e guardare le loro responsabilità, vanno comunque aiutati i ragazzi intanto a esprimere ciò che sentono, perché spesso quello che porta poi un ragazzo vittima di bullismo anche appunto a tentare il suicidio o effettivamente a togliersi la vita è proprio il fatto di non riuscire a trovare, a condividere la sofferenza, l'emozione che c'è dietro, quindi riuscire a parlarne con qualcuno, ovviamente che sappia ascoltare, che non può essere il compagno di scuola, perché il compagno magari non ha gli stessi strumenti, ma un adulto che sappia ascoltare, allora questo, anche se può sembrare banale, invece è molto molto importante. Queste due cose. Chiudiamo. Allora, vi ringraziamo e siamo molto contenti di questo confronto che abbiamo avuto e magari speriamo di poterci incontrare in qualche altra occasione. Grazie. Grazie.